cosa giusta si sa, ci vuole solo un po' di lucidità. Ci si raduna in un castello lassù e si disegna il futuro per noi. E allora traccia il confine di là che dividerà la gente, si sa, di quella tribù che cerca più là una guerra para. Oppure sposta il confine più qua, così lascerà una sola città abitata da chi in quella terra più là. Questa è la storia dell'umanità, un cristiano di qui, un musulmano di lì, mettili insieme nella terra indù. E allora traccia il confine più là che dividerà la gente, si sa, di quella tribù che certo più là una guerra para. Oppure sposta il confine più qua, così lascerà una sola città abitata da chi di quella terra più là. Produrre armi ci desercita. E forse l'uomo alla fine si sa, un po' cattivello di certo lo è. Traccia il confine più là che dividerà la gente, si sa, di quella tribù che certo più là un macello farà. Oppure scossa il confine più qua, così lascerà una sola città abitata da chi in quella terra più là. Yeah.